ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo quindicesimo. Il sacrilegio. Il bel sogno d'amor sparisce. L'amore di Bianca Maria Cavalcanti e di Antonio Amati si era fatto più forte e più doloroso. Anzi, il segreto cruccio mesceva non so quale attraente sapore di lacrime nella loro passione. Quello che era stato un idillio fra la innocente pia fanciulla di 20 anni e l'uomo di 40 acquistava saldezza e profondità di dramma. Candidamente, con la ingenuità dei cuori che amano per la prima volta, essi avevano sognato di vivere insieme la vita, sorreggendosi per la mano nel lungo cammino, ma continuamente si ergeva fra loro la figura ostile di Carlo Cavalcanti. Ebbene, il dottore in quell'estate, legato dalla catena di quell'amore, posponendo di giorno in giorno la sua partenza per il Molise, sentendo tutta la pena di quel ritardo, impallidendo ogni volta che gli giungeva una lettera di sua madre, dettata al fattore della masseria, una lettera piena di malinconici richiami, il dottore era arrestato a Napoli, scontento di sé e degli altri, adorando Bianca Maria e odiando il marchese Cavalcanti. La innocente creatura, i cui sogni erano sempre turbati dalle allucinazioni di suo padre, deperiva ogni giorno, senza che il medico potesse far nulla per guarirla. Aveva soltanto ottenuto, offrendo la sua carrozza, che Bianca Maria andasse a fare delle lunghe passeggiate in carrozza, in riva al mare, sulle dolci colline che circondano Napoli. La vecchia Margherita l'accompagnava e talvolta anche il dottore osava uscire con la fanciulla. Quando appurava una cosa simile, il marchese Carlo Cavalcanti aggrottava le sopracciglia e l'antico sangue di sua casa gli bolliva nelle vene, istigandolo a punire l'audace plebeo che assumeva contegno di fidanzato presso una fanciulla di alto nome, ma si chetava. Tante transazioni aveva fatte e continuava a fare ogni giorno di più, con l'alterezza, col decoro, persino con l'onore. Del resto, tutti dicevano che il dottor Antonio Amati avrebbe presto sposato la marchesina Cavalcanti. Tutti lo dicevano, con un sorriso di compassione per la fanciulla, come se il medico facesse un'opera provvidenziale sposandola. Lassù, nel bosco di Capodimonte così verde e profondo di alberi secolari, di prati smaglianti di fiori, laggiù, lungo l'ammirabile via di Posillipo che discende ai fumanti campi flegrei, l'idillio dei due innamorati ricominciava, innanzi alla bella natura napoletana, fra tanta soavità di linee e di colori. Una volta che Margherita, in presenza di Cavalcanti, aveva accennato alle voci di matrimonio fra la marchesina e il dottore, il marchese era diventato una furia e aveva dato tale un urlo dicendo «No!» che la cameriera si era turata le orecchie spaurita. «Eppure la signorina si dovrà maritare un giorno», osservò ella timidamente e maternamente. «Meglio il dottore che un altro». «Ho detto no!» ribatté tetro il marchese. D'allora in poi egli si mostrò più originale, più stravagante nelle sue parole. Ogni tanto, fra le tante incoerenze mistiche e spirituali in cui vagabondava la sua fantasia, egli ritornava, parlando a sua figlia, a un pensiero dominante. All'amore considerato come macchia, come peccato, come indelebile impurità dell'anima e del corpo. La fanciulla spesso arrossiva nella sua semplicità, udendo le ingiurie di cui egli colmava l'amore. E allora egli faceva l'elogio della castità che mantiene il cuore nello stato di grazia, che permette agli occhi umani le sovrumane visioni, che fa attraversare la vita in uno stato soavissimo di puro sogno. Egli si esaltava, ma le diceva l'amore come sorgente di tutte le sozzure, di tutti i mali, di tutti i dolori. La bocca si torceva sotto questo flusso impetuoso di vituperi e Bianca Maria si nascondeva il volto fra le mani come se tutte le ingiurie del padre la colpissero sul viso. Il marchese Cavalcanti, fra le fluttuazioni della sua follia, aveva conservato la mistica reverenza e ogni venerdì passava delle ore in preghiere nella sua cappella. E una notte supra sabato, Bianca Maria udì nel dormiveglia suo padre passeggiare su e giù per la casa. passando varie volte innanzi alla sua porta, nelle furiose cogitazioni della sua anima tumultuante. E sottovoce ella invocò per lui la calma del cielo, la calma che pareva fuggita per sempre da quello spirito. Ma mentre si riaddormentava, un bizzarro e sordo rumore la risvegliò, trabalzante. Era come se si trascinasse un corpo pesantissimo, facendo vacillare le porte, le finestre e i pavimenti con quel tetro fragore. Ogni tanto il misterioso rumore si andava chetando, taceva. Dopo una pausa di qualche minuto ricominciava più forte e più sordo nel medesimo tempo. Ella era rimasta levata sui guanciali, inchiodata da una ignota mano di ferro. Che accadeva di là? La mattina, dopo aver riposato poche ore, si levò più tranquilla e dopo aver detto le sue orazioni andò nella stanza di suo padre, come soleva fare ogni mattina, per augurargli il buongiorno. Ma non lo trovò e il letto era intatto. Talvolta da qualche tempo il marchese Cavalcanti non rientrava a casa e l'allarme suo e dei servi le prime volte era stato grande. Ma quando il marchese di Formosa era rientrato, aveva sgridato coloro che lo avevano cercato dicendo che non tollerava inquisizioni, che faceva il piacer suo. Pure Biancamaria, ogni volta che sapeva aver egli passato la notte fuori di casa, diventava inquieta. Era vecchio, era stravagante. La sua follia lo metteva in perigliosi contatti, lo rendeva credulo e debole. Ella temeva sempre che qualche pericolo lo soverchiasse. Una di quelle notti nella via, in qualche oscura riunione di cabalisti. Anche quella mattina tremò e passò nelle altre stanze, ripensando a quel fenomeno della notte di nuovo, domandando a se stessa se tutto ciò non si rannodasse a un truce mistero. Trovò Giovanni che spazzava accuratamente. «Non è rientrato questa notte il marchese?» domandò con finta disinvoltura. «È rientrato, ma è uscito prestissimo», rispose il servitore. «Non è andato a letto, credo», mormorò abbassando gli occhi. «No, eccellenza», disse il vecchio servitore. In questo sopraggiunse Margherita e disse qualche cosa frettolosamente al marito che annuì e disparve nella cucina. «Ho pregato Giovanni che tirasse lui il secchio dell'acqua dal pozzo stamane», spiegò la vecchia cameriera. «Stamane non ho forza». «Poveretta, ti stanchi troppo», osservò pietosamente Biancamaria con gli occhi pieni di lacrime. «Sono un po' vecchia, ma per voi farei qualunque cosa, eccellenza», disse la fedele con voce materna. «Ma non so che cosa abbia il secchio stamane. È così pesante che non lo posso tirare su. Ho pregato Giovanni che ha più forza a prendere il mio posto». E ambedue andarono di là, perché Margherita ci teneva all'onore di pettinare le belle e folte trecce nere di Biancamaria. Anche la pettinatura fu interrotta da Giovanni che, non osando entrare, chiamava fuori Margherita e parlottarono fra loro qualche tempo, mentre Biancamaria aspettava coi capelli neri disciolti sul bianco accappatoio. Margherita ritornò, turbata, e tremava, tenendo il pettine. «Che è?» chiese Biancamaria. «Niente, niente», mormorò in fretta la cameriera. «Dimmi, che è?» insisté l'altra guardando la vecchia. «È che neppure Giovanni ha potuto tirar su il secchio». «Ebbene?» «Giovanni dice che vi è un ostacolo». «Un ostacolo?» «Ha chiamato Francesco il facchino. Tireranno su insieme. Forse vinceranno l'ostacolo». Che ostacolo?» balbettò la fanciulla impallidendo mortalmente. «No», disse quella risolutamente, scartando la mano col pettine e raccogliendo sulla testa i capelli con le forcinelle. «No, andiamo di là». «Eccellenza, eccellenza, che ci andiamo a fare? Vi sono Giovanni e Francesco, restiamo qui». «Andiamo di là», insistette la fanciulla avviandosi verso la grande cucina. Il vecchio Giovanni e il facchino Francesco in maniche di camicia tiravano con tutte le loro forze la fune. E la fune saliva con un moto impercettibile, con uno scricchiolio, come se si spezzasse. Ma tanto sulla faccia del vecchio servitore Giovanni, come sulla faccia del facchino Francesco, oltre il senso della grossa fatica che duravano, si leggeva una gran paura. Ogni tanto, coi fianchi ansimanti e le braccia che si irrigidivano, si fermavano dal tirare e si guardavano, scambiando un'occhiata spaventata. Dalla soglia della cucina Avvolta nell'accappatoio bianco e coi capelli mezzo disciolti, Bianca Maria li guardava fare, mentre Margherita, la cameriera, alle sue spalle, la veniva pregando sottovoce perché se ne andasse, se voleva bene alla Madonna, perché se ne andasse in nome di Dio. «Ma infine, che sarà?» disse con fermezza Bianca Maria, rivolgendosi ai due uomini a cui il crescente timore troncava le forze. «Che vi posso dire, eccellenza?» balbettò Giovanni. «Questo peso non è cosa buona!» Ma mentre tutti tenevano gli occhi fissi sul pozzo, in un'angosciosa aspettazione, avendo tutto lo spasimo di quell'attesa e tutta la paura dell'ignoto, la cosa che i due uomini tiravano su urtò fragorosamente due volte a destra e a sinistra nelle pareti del pozzo. E il grave rumor sordo si ripercosse nel cuore di Bianca Maria, poiché era identico a quello che aveva udito nella notte. Un piccolo grido di spavento le uscì dalla bocca ed ella strinse le mani fino a farsi entrare le unghie nella carne per soffocare innanzi a quei servi il suo terrore. Ma ancora una volta, con un rumore più forte e più vicino, la cosa batté contro la parete del pozzo. «Sta avvenendo!» disse il facchino paurosamente. «Sta avvenendo!» ripetette Giovanni costernato. E alle spalle di Bianca Maria, che non poteva più domare i suoi nervi eccitati, Margherita pregava sottovoce tremando: «Madonna, assistici, Madonna, scampaci!» Ma quello che apparve all'orlo del pozzo, barcollando, vacillando, con la fune del secchio che gli girava tre volte intorno al collo, con la catena del secchio che gli pendeva sul petto, la fece urlare di paura. Era un tronco d'uomo, dalla fronte stillante acqua e sangue sulle guance dolorose, dal torace nudo, stillante a rivoli sangue e acqua dal costato ferito, e negli occhi aveva sangue e lacrime, e la faccia e il petto avevano il livido colore della carne dei morti. Urlando di spavento, Francesco e Giovanni fuggirono, chiamando «Aiuto! Aiuto!» Urlando di paura, le due donne, padrona e cameriera, erano fuggite nel salone tenendosi abbracciate, l'una con la faccia nascosta sul petto dell'altra, non osando levare il volto, perseguitate da quella orribile visione di tronco di assassinato. E il tronco, tutto livido, tutto sanguinante nel viso e nel petto e nelle braccia avvinte, con l'espressione desolata dei suoi occhi, della sua bocca socchiusa quasi a un singulto, gocciando acqua e sangue, restò appoggiato sul parapetto, legato dalla fune, legato dalla catena. Il facchino e il servitore si erano buttati verso le scale gridando che vi era un morto, che vi era un morto ucciso. E subito nella scala, nel portone, nel vicinato, si diffuse la voce che nel pozzo del Palazzo Rossi era stato trovato il cadavere di un assassinato. Tutti avevano aperte le porte di casa, tutti erano alle finestre, ma il racconto confuso e tremante che facevano Francesco e Giovanni aveva tanto comunicativo spavento che nessuno osava penetrare nella casa aperta del Marchese Cavalcanti e nella cucina dove il cadavere giaceva abbandonato. Nel salone le due donne si tenevano sempre strette, tremando, mentre Margherita cercava di vincersi per amore della sua padrona, il cui corpo nelle sue braccia e la sentiva a volte ammollirsi come per mancanza di spiriti vitali, a volte irrigidirsi come in un impulso di convulsione nervosa. Ma il gran sussurro del palazzo, dal portone, era giunto anche in casa del dottore, che aveva il cuore sempre fremente nell'aspettativa di una catastrofe. Giovanni, ripensando alle due donne lasciate sole, pentito di quel gran chiasso, intendendo che tutto quello scandalo sarebbe ricaduto sulla famiglia Cavalcanti, risaliva le scale. «Veramente c'è un morto?» gli chiese Amati, non arrivando a nascondere, malgrado la propria forza, il turbamento che lo aveva colpito. «Veramente, eccellenza!» disse il cameriere con la disperazione negli occhi e nella voce. «Chi lo ha visto?» «Tutti, eccellenza!» «Chi tutti? Anche la signorina? Anche la signorina?» Il dottore gli gettò un'occhiata terribile e entrò nella casa fatale, dove un fiato tragico aveva sempre soffiato dal primo momento che vi aveva posto il piede, dove tutte le lugubri bizzarrie parevano possibili. Girò per le stanze come un pazzo, in cerca della fanciulla, e la trovò seduta in un seggiolone del salone, così pallida, così stravolta e così muta che Margherita, sgomenta, le si era inginocchiata dinanzi, tenendole le mani, pregandola che le dicesse una parola, solo una parola. Bianca Maria diede un'occhiata ad Amati e parve non lo riconoscesse, tanto rimase fredda e inerte, fissa nella sua espressione di spavento. Con uno sguardo il dottore raccomandò la fanciulla a Margherita e, seguito da Giovanni, andò in cucina. In anticamera vi erano già due o tre persone che parlavano di chiamare il delegato, il portiere, la portiera, le serve di casa Fragalà e di casa Parascandolo, Francesco il Facchino, ma nessuno di essi, pur seguendo il dottore, osò entrare nella cucina. Lo lasciarono andar solo, aspettando nell'anticucina in silenzio, vinti di nuovo da una gran paura. Il medico, pur avvezzo ai cadaveri, scosso da quella catastrofe che lo feriva intimamente, demoralizzato dal pensiero delle sue conseguenze, entrò in cucina, in preda al più profondo dei turbamenti che la vista di quella fronte sanguinante, di quegli occhi piangenti, di quelle mani legate e sanguinanti, di quel torso livido, ferito e sanguinante, fecero crescere a dismisura. Ma il sangue freddo dello scienziato, avvezzo alla morte, riprese il sopravvento e, accostandosi, egli vide che quel capo aveva la corona di spine e in una stupefazione immensa egli comprese tutto. Era Lecce Homo. La mezza statua di legno, che rappresentava la sua naturale grandezza il divin redentore legato alla colonna, scolpita e dipinta magistralmente, aveva tutto l'orribile aspetto del cadavere sanguinante. E l'acqua del pozzo in cui era stata immersa ne aveva stinto il color di carne e il vermiglio del sangue, facendolo colare nella duplice magica apparenza dell'assassinio e dell'annegamento. Pure il dottore Amati si era sentito stringere il cuore allo scoprire quella lugubre farsa, quella miscela di crudeltà e di grottesco. E dominata totalmente la stupefazione, l'uomo forte intendeva soltanto l'immensa amarezza di Bianca Maria inferma, addolorata, ferita forse a morte per una tetra, mistica e puerile follia in cui vaneggiava il marchese Cavalcanti. Adesso urgeva soccorrerla. «È Lecce Homo», disse brevemente uscendo fuori alla gente raccolta nell'anticucina. «Voi che dite, eccellenza?» gridò Giovanni, provando lo stesso senso di stupefazione, aumentato dal dolore di quel sacrilegio. «È Lecce Homo!» egli ripeté, guardando tutti coloro freddamente con quella sua aria imperiosa che non ammetteva replica. «Andate in cucina, asciugatelo e riportatelo nella cappella». Coloro si guardarono, consultandosi, sanati dal terrore del morto, presi dall'orrore di quell'oltraggio alla divinità. «Dopo farete venire il prete a benedire», egli disse, conoscendo il cuore del popolo napoletano. Andò di là, nel salone. La fanciulla era ancora distesa sul seggiolone, con gli occhi coperti dalle mani, mormorando sempre fra sé: «Il morto! Il morto, amore caro! Fate portare via il morto!» «Non dite più questo, Bianca Maria. Credetemi, credetemi», soggiunse il dottore con una dolce fermezza. «Non vi era il morto, era la statua del Lecce Homo». «Che era?» gridò ella, levandosi in piedi, guardando il dottore con certi occhi stravolti. Egli si scosse, ma credette che questa fosse la crisi di quel lungo vaneggiamento e le ripetette, cercando domarla con lo sguardo: «Era la statua del Lecce Homo. Vostro padre l'aveva sospesa nel pozzo con una fune al collo». «Dio!» urlò lei con voce potentissima, levando le braccia al cielo. «Dio, perdonateci!» E cadde, ginocchioni. Si prostese, toccando la terra con le labbra, piangendo, pregando, singhiozzando, continuando a supplicare il Signore di perdonare a lei e a suo padre. Fu dopo un'ora che il marchese silenziosamente entrò nel salone. Era come più vecchio, più stanco, più rotto dal peso della vita. «Che ha, Bianca Maria?» domandò timidamente al dottore. «Che le hanno fatto?» «Voi la uccidete», disse gelidamente il medico. «Hai ragione. Hai ragione, figlia mia. Sono un assassino!» strillò il vecchio. Quell'uomo sessantenne si buttò ai piedi di sua figlia, tremante di vergogna e di umiliazione, tutto sussultante di un singulto senza pianto. E sotto gli occhi del dottore la compassionevole scena si svolse. Quel padre canuto, dal gran corpo cadente, pieno di raccapriccio e di dolore, piangendo le rare e brucianti lacrime dei vecchi, sentendo tutto l'orrore della sua colpa, si piegava innanzi alla giovane figliuola, chiedendole perdono con un balbettio infantile, proprio come il fanciullo che sfoga nel pianto tutto il puerile pentimento del suo errore. Perdona, figlia mia, perdona al tuo vecchio padre. Calpestami, me lo merito, ma perdonami, andava ripetendo il marchese di Formosa in preda a un furore di umiliazione. Bianca Maria, avvicinandosi al seggiolone dove giaceva disfatto suo padre, si piegò verso di lui e con una tenerissima voce gli disse: «Mio padre, voi mi volete bene, non è vero?» «Sì», disse lui. «Voi mi volete fare una grazia? Tutto, tutto, Bianca Maria. Una grazia sola, per il mio bene, per la salute e la felicità del mio avvenire. Promettete di farla?» «Tutto quello che vuoi, figliuola. Sono il tuo servo.» «È una grazia singolare. Ve la dirò più tardi, quando saremo ritornati in grazia di Dio, quando saremo più tranquilli. Ho la vostra parola, mio padre. Voi non avete mai mancato. Hai la mia parola», egli disse, affannato, come se non reggesse a quel dialogo. Ella intese, si piegò e con quel suo consueto atto di sommissione filiale gli sfiorò la mano con le labbra. Egli le toccò la fronte lievemente in segno di benedizione. Ella si appressò al dottore, gli tese la mano e lo guardò con tale intensità di amore che egli impallidì e, per nascondere la sua emozione, si abbassò a baciarle la mano. Lentamente, trascinando la persona sottile di cui le forze mancavano, ella si allontanò, uscì dal salone, lasciando i due soli. Il vecchio pareva concentrato in profonde e tristi riflessioni, poiché ogni tanto levava la faccia al cielo in atto di angoscia e la riabbassava, crollando il capo quasi scorato. Ma il medico vedeva che l'ora era giunta. «Potete ascoltarmi?» gli domandò freddissimamente. «Preferirei un altro giorno», gli rispose con voce fioca il marchese. «Meglio oggi», insistette Amati con la stessa freddezza dominatrice. «Sono assai turbato. Assai...» «Ebbene, marchese, vi è un mezzo per porre quella giovine esistenza innocente al coperto di tutte le angosce fisiche e morali che la consumano. Vi è un mezzo per toglierla dall'ambiente di malattia, di tristezza, di decente ma penosa miseria in cui ella soffre per tutte le sue fibre. Vi è un mezzo per assicurarle un avvenire di salute, di agiatezza, di pace, di serenità come merita quell'anima purissima. Vi è un mezzo per cui ella può rivivere e questo mezzo è nelle vostre mani.» «Ho tentato, lo sapete», disse desolatamente il marchese Cavalcanti fraintendendo. «Ma non sono riuscito.» «Voi non mi intendete», riprese il medico, frenando a stento la sua impazienza, poiché vedeva sempre accecato il marchese. «Non vi parlo del lotto che è stato il grande disastro della vostra famiglia, che è il cruccio di vostra figlia, che è il tormento di tutti coloro che vi amano. Come potete supporre che io vi parli del lotto? Eppure è il solo mezzo per fare denari. Molti denari. Solo con esso io posso salvare Bianca Maria.» «Vi ingannate», replicò sempre più freddamente il dottore. «Vi parlo di altro. Si può trovare altrove la quiete e la fortuna.» «Di che mezzo parlavate voi?» domandò con voce strana, dove Amati udì nuovamente l'ostilità. «Forse oggi siamo troppo alterati. Tralasciamo», mormorò il dottor Amati, che si vedeva in procinto di perdere una grave partita. «Domani.» «Non ritardiamo», insistette con fredda cortesia il marchese Cavalcanti. «Già che si tratta di Bianca Maria, sono pronto. Datemi vostra figlia in moglie», disse rapidamente ed energicamente il dottor Amati. «Non ve la voglio dare.» «Perché?» «Non ho dovere di spiegarvi le mie ragioni.» Tacquero. Ambedue, diversamente straziati, erano straziati. «Ripensateci ancora, marchese. Se mi dite ancora di no, io dovrò allontanarmi per sempre. Non recidete così bruscamente i nostri legami. Siete libero di allontanarvi. Non ci vedremo più. Forse era meglio che non ci fossimo mai visti. È vero. Me ne andrò. Andate pure. Addio, signore. Prima di andarmene, però, io voglio interrogare la vostra figliuola, qui, voi presente. Non siamo più nel Medioevo. Anche la volontà della fanciulla conta. Non conta. Vi ingannate. Io la interrogherò. Andrò via quando essa mi dirà di andare. Chiamatela, se siete uomo leale, se siete gentiluomo. Il vecchio signore, interpellato in nome della lealtà, si rizzò e suonò il campanello, dicendo a Giovanni di far venire la figliuola. I due nemici stettero in silenzio fino a quando ella comparve. Con la facilità dei temperamenti estremamente nervosi, ella aveva riacquistata tutta la sua calma, ma un'occhiata rivolta alle due persone che amava sconvolse il suo spirito immediatamente. «Lascio a voi la parola», disse con gentilezza il medico, inchinandosi al marchese. «Bianca Maria», cominciò con voce grave il padre. «Il dottor Antonio Amati dice di amarvi. Lo sapete voi?» «Sì, mio padre». «Ve lo ha detto?» «Sì, mio padre». «Avete tollerato che ve lo dicesse?» «Sì, mio padre». «Voi avete commesso un grave errore, Bianca Maria». «Ma tutti erriamo», ella mormorò guardando Antonio Amati per prendere coraggio. «Ma vi è qualcosa di molto peggio. Egli dice che voi lo amate». «Io in volto gli ho ripetuto che egli mentiva, che voi non potevate amarlo». «E perché lo avete chiamato mentitore?» «Ma è possibile che tu abbia smarrito ogni pudore amando costui e dicendoglielo?» «Ma anche mia madre vi amava e ve lo ha detto. Era una donna pudica». «Non divergere, non chiamare testimonianze. Rispondi a me, a tuo padre. Tu ami questo dottore?» «Sì», ella disse aprendo le braccia. «Io non ti perdonerò mai questa parola, Bianca Maria». «Che Dio sia più misericordioso di voi, mio padre». «Dio castiga i figliuoli disobbedienti. Il dottor Antonio Amati mi ha cercato te in sposa. Gli ho risposto di no, per adesso di no, per domani di no, per sempre». «Voi non volete che io sposi il dottor Amati?» «No, non voglio». «È vero che neppure tu lo vuoi?» Ella non rispose. Due grosse lacrime le rigarono le guance. «Rispondete, signorina», disse il medico con tale angoscia nella voce che la poveretta fremette di dolore. «Non ho nulla da dire». «Ma non avete detto che mi amate?» «Sì, l'ho detto. Lo ripeto. Vi amerò sempre. E mi rifiutate?» «Non vi rifiuto. È mio padre che vi rifiuta». Il dottore Amati si allontanò, seguito dal magnetico sguardo di Bianca Maria, senza voltarsi indietro, andandosene solo al suo amaro destino. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.